Capitolo 10. La signora Snow torna a vivere. In occasione della successiva visita alla signora Snow, Pollyanna la trovò in una stanza avvolta nella penombra come la prima volta. È la nipotina della signorina Polly, mamma, Millie annunciò stancamente. Subito dopo Pollyanna si trovò sola con l'ammalata. Ah, sei tu? Chiese una voce irritata dal letto. Ti ricordo bene. Chiunque si ricorderebbe di te una volta che ti ha conosciuta. Ti avrei voluta qui con me ieri, e invece non c'eri. Davvero? Allora sono contenta di essere qui oggi, replicò Pollyanna appoggiando su una seggiola il cestino che aveva infilato al braccio. Mamma mia, che buio che c'è qui, la vedo a stento, disse andando verso la finestra per sollevare la tenda. Mi faccia vedere se si è pettinata come le avevo detto io l'ultima volta. Ah, ma non lo ha fatto. Beh, meglio così, vuol dire che magari mi permetterà di pettinarla di nuovo. Adesso intanto le faccio vedere cosa le ho portato. La donna nel letto si girò irrequieta. Cosa c'è da vedere? Tanto non è l'aspetto esterno a contare, ma la sostanza. Insomma, che cosa c'è lì dentro? Indovini un po', lei che cosa desidererebbe? Disse Pollyanna dirigendosi verso il cestino. La malata si imbronciò. Ah, per conto mio non avrei voglia di niente, brontolò. Del resto ha tutto lo stesso sapore. Pollyanna ridacchiò. Oh, stavolta sarà diverso. Se proprio dovesse dirmi una sua preferenza, quale sarebbe? La donna esitò. Rassegnata e abituata com'era a desiderare una cosa per riceverne poi invece un'altra, non riusciva lì per lì a esprimere un desiderio. D'altra parte, la bambina aspettava curiosa. Mi piacerebbe un po' di brodo. Ce l'ho! Esclamò Pollyanna trionfante. Sì, però adesso per il mio stomaco andrebbe meglio un po' di arrosto. O anche quello. Disse Pollyanna felice. La donna la guardò sbigottita. Li hai portati tutti e due? Chiese. Sì, tutti e due, e in più anche la gelatina. Volevo che una volta tanto lei avesse ciò che desidera. E così Nancy e io abbiamo preparato più cose. C'è un po' di tutto, anche se naturalmente in porzioni ridotte. Sono tanto contenta che abbia chiesto l'arrosto. Vede, mentre ero per strada per venire qui, pensavo, e se mi chiedesse poi le trippe? Oppure un piatto di cipolle o qualcosa del genere che non ho portato? Oh, che peccato! Sarebbe, dopo tutto quello che ho faticato. E intanto estraeva i tre pentolini dal cestino. Nessuna risposta. Ecco fatto, le lascio tutto qui. Probabilmente domani le verrà voglia di un po' di brodo. E oggi? Come sta? Non tanto bene, grazie, mormorò la signora Snow, tornando ad abbandonarsi contro i guanciali con la sua solita inquietudine. Questa mattina non sono riuscita a riposare neanche un po'. Una nostra vicina, Nellie Higgins, ha cominciato a suonare il piano di mattina presto e mi ha esasperata con la sua musica. Non so come potrò ridurmi se dovesse continuare. Pollyanna la consolò con un sorriso di comprensione. So bene che è una cosa tremenda. Una volta la signora Whitey, una delle signore dell'assistenza, era immobilizzata a letto a causa dei reumatismi e non poteva in nessun modo difendersi dal frastuono della musica di un vicino. Lei invece ci riesce a girarsi nel letto, vero? A fare che? A cambiare posizione quando il pianoforte la esaspera. La signora Snow guardò Pollyanna con sorpresa. Ma certo che riesco a muovermi nel letto. Vede dunque che in questo può dirsi contenta, mentre la povera signora Whitey, inchiodata com'era dai reumatismi, non poteva nemmeno provarci. Così mi assicurava la stessa signora Whitey, dicendomi che se aveva evitato di ammattire doveva il merito alle orecchie di sua cognata. Le orecchie della cognata? Che cosa c'entrano? Già, mi devo spiegare meglio, visto che lei non conosce la signora Whitey. Sua cognata, che era sorda, l'assisteva in casa sua e quando in una casa di fronte cominciavano a strimpellare il piano, la signora Whitey finiva per sentirsi contenta di udirlo pensando alla sordità della cognata. Anche lei aveva imparato a fare il gioco di cui le avevo parlato. Il gioco? Quale gioco? Pollyanna batté le mani felice. Oh, ecco, signora Snow, glielo dico subito. Ci tenevo tanto a trovare qualcosa che potesse rasserenarla che me ne ero quasi dimenticata. Rasserenarmi? Cosa vuoi dire? Ma sì, non ricorda che gliel'avevo promesso? Lei non mi aveva chiesto di suggerirle come poter essere contenta, anche se costretta a letto tutto il giorno? Sì, ora ricordo bene, rispose la signora Snow, ma non credevo che parlassi sul serio. E invece parlavo proprio sul serio, replicò vivacemente Pollyanna, e finalmente ho trovato il modo. Difficile, ma tanto più divertente. Come sarebbe a dire? Adesso glielo insegno e vedrà che quanto più le risulterà difficile, tanto più le riuscirà divertente. Per cominciare, penso che lei dovrebbe sentirsi contenta che altri non abbiano la stessa sua malattia e non siano come lei obbligati a letto. La signora Snow la fissava e sembrava piuttosto arrabbiata. Ah, andiamo bene, disse indignata. Ci mancava anche questa. Pollyanna cominciò allora a spiegarle come funzionava il gioco, raccontandole la storia di quei pacchi che arrivarono alla missione pieni di stampelle, anziché delle bambole tanto attese. Il racconto era appena finito quando Millie comparve sulla porta. Tua zia ti aspetta, Pollyanna, le annunciò. Ha telefonato dalla casa degli Harlows qui di fronte perché ti sbrighi, dato che devi ancora fare i compiti prima che venga scuro. Pollyanna si alzò di malavoglia. Va bene, corro da lei, disse, e poi d'un tratto si mise a ridere. Penso che in questo momento dovrei essere contenta di avere le gambe, così posso correre. Non è vero, signora Snow? Non ebbe risposta. Gli occhi della malata erano chiusi, ma Millie, che per la sorpresa teneva i suoi bene aperti, si accorse che due lacrime correvano giù dalle guance emaciate della madre. Arrivederci! Pollyanna salutò mentre si dirigeva verso la porta. Mi dispiace molto proprio per i capelli che oggi non ho potuto sistemarle come avrei desiderato. Vuol dire che sarà per la prossima volta, eh? Un giorno dopo l'altro, anche luglio trascorse e per Pollyanna furono tutti giorni felici. In ogni occasione tornava a ripetere alla zia la sua gioia di poter vivere con lei. E ogni volta la zia replicava con monotonia: va bene, Pollyanna, sono contenta che tu sia soddisfatta, ma sarebbe utile che tu traessi anche dalla vita insieme con me qualche profitto. In caso contrario, sentirei di mancare i miei doveri. Di norma. Pollyanna rispondeva con le prediche con un abbraccio e con un bel bacio, e ogni volta la zia restava sconcertata, finché un bel giorno, durante una lezione di cucito, Pollyanna decise di parlare chiaro. Intendi dire, zia, che questo periodo di vita insieme con te, oltre che essere felice, dovrebbe anche riuscire utile? Già, proprio così. Va bene, ma che cosa significa utile? Questa è bella. Utile vuol dire che produce un vantaggio, che rende un profitto. È strano che tu me lo domandi, Pollyanna. Ma perché la felicità non è sempre anche utile? Chiese la bimba molto incuriosita. Certamente no, non sempre. Oh, questo sì che è un guaio. Allora è chiaro che il gioco, zia, non potrà mai piacerti. Il gioco? Ma di che gioco parli? È quello che il papà. Oh, ma a questo punto Pollyanna si tappò la bocca con una mano, balbettando. Oh, niente, niente. La signorina Polly si alzò, visibilmente contrariata. Per oggi può bastare, la lezione è finita. Quello stesso pomeriggio, mentre Pollyanna scendeva dalla sua stanzetta, incontrò la zia sul pianerottolo. Oh, come sei gentile a essere salita fin quassù a trovarmi. Sali pure, la invitò accompagnandola su per gli scalini fino alla sua porta. Mi fa piacere la tua compagnia. In realtà la signorina Polly non era neanche stata sfiorata dal pensiero di andare a trovare la nipote. Stava invece salendo le scale alla ricerca di un certo scialle che era riposto nell'armadio vicino alla finestra orientale del sottotetto. E così finì per trovarsi nella camera della nipote seduta su una sedia a schienale rigido. Non era la prima volta, del resto, dopo l'arrivo di Pollyanna, che la signorina Polly si era vista costretta a cambiare improvvisamente programma, sconvolgendo i suoi progetti originari. Mi piace la compagnia, ripeteva Pollyanna alla zia, offrendo la sua ospitalità come se fosse stata la padrona di un intero palazzo, e specialmente dopo che ho potuto avere una stanza tutta per me. Veramente. Beh, una stanza l'ho sempre avuta, ma era in affitto e le stanze d'affitto non valgono neanche la metà di quelle di proprietà, non ti pare? E naturalmente questa è mia, vero? Ma sì, Pollyanna, mormorò la zia chiedendosi perché se ne stesse ancora lì, invece che andare a cercare il suo scialle. E ovviamente voglio bene a questa stanza, anche se è senza tappeti, tende e quadri come avrei tanto desiderato. E qui improvvisamente Pollyanna si interruppe, arrossendo imbarazzata. Stava per impegnarsi in un discorso del tutto diverso quando la zia la bloccò bruscamente. Cosa intendi dire? Oh, niente, niente, zia Polly, non intendo aggiungere altro. Sarà, ma se avevi cominciato qualcos'altro ti sarà rimasto da dire. Ma non era niente, solo che mi aspettavo dei bei tappeti, tende di pizzo e altre cose del genere. Ma naturalmente, disse Pollyanna, arrossendo ancora più imbarazzata, ti aspettavi che cosa? La interruppe duramente la zia. Oh, è chiaro che non avrei dovuto nemmeno pensarlo, zia Polly. tentò di scusarsi Pollyanna. Forse è perché li avevo sempre desiderati senza mai poterli avere. Una volta, è vero, un pacco della missione conteneva due piccoli tappeti, ma minuscoli, e poi uno era macchiato di inchiostro e l'altro aveva due buchi. Anche di quadri ce n'erano arrivati due, ma il pap... anzi, voglio dire che quello migliore è stato venduto, mentre l'altro era rotto. Non fosse stato per quel ricordo, certamente non mi sarei create queste aspettative. Quando arrivata qui il primo giorno, attraversando l'atrio così riccamente arredato, pensavo come doveva essere graziosa la mia stanza ma davvero, zia, credimi, mi ci è voluto solo qualche minuto per scoprire che potevo rallegrarmi perché non c'è lo specchio sul mio comò, così infatti evito di vedere le mie lentiggini e per capire che nessun quadro poteva essere più bello di quello che mi si spalancava davanti alla piccola finestra. E poi tu sei stata tanto buona con me, zia. La signorina Polly a quel punto scattò in piedi, il suo volto era paonazzo. Adesso basta, disse con durezza. Hai già detto abbastanza. Un minuto dopo scendeva precipitosamente le scale. Soltanto al primo piano si ricordò del motivo per cui era salita nel sottotetto e dello scialle che avrebbe dovuto prendere dall'armadio. Meno di 24 ore più tardi, la signorina Polly disse a Nancy: Nancy, sei autorizzata a trasportare le cose della signorina Pollyanna nella camera che si trova sotto alla sua. Mi pare bene che per adesso mia nipote dorma lì. Va bene, signorina, disse la ragazza, mentre dentro di sé pensava proprio un miracolo. Corse subito a informare Pollyanna. Vuoi sapere la novità, Pollyanna? Stanotte potrai dormire nella camera che è sotto alla tua. E non è una storia, sai? Vuoi scherzare, Nancy? Ma cosa dici? No, è proprio vero, assolutamente vero, confermò felice la ragazza e intanto le mostrava la bracciata di vestiti che aveva appena tolto dall'armadio in soffitta per passarli nella stanza sottostante. Devo fare in fretta prima che cambi idea, aggiunse maliziosa. Nancy non aveva ancora finito di parlare che Pollyanna, rischiando di ruzzolare per le scale, scese gli scalini due alla volta precipitandosi, non senza sbattere due porte e rovesciare un paio di seggiole, verso il suo obiettivo, la zia Polly. Oh, zia Polly, zia Polly, davvero hai fatto questo per me? Proprio quella camera con tanto di tappeto e di tende, con ben tre quadri, senza contare quello fuori dalla finestra che resta identico a quello di sopra. Oh, zia Polly. Bene, bene, Pollyanna, sono soddisfatta che tu gradisca il cambio della stanza. Naturalmente, se apprezzi tanto i nuovi arredi, confido che saprai averne la debita cura. Questo è tutto. Intanto, Pollyanna, rimetti in piedi quelle sedie e bada che in mezzo minuto sei riuscita a far sbattere due porte. La signorina Polly parlava molto severamente, in quanto per qualche recondito motivo stava per commuoversi fino alle lacrime, e questo non era certo nel suo carattere. Pollyanna rialzò le seggiole. Sì, ho sbattuto quelle porte, ammise allegra. Vedi, avevo appena saputo la notizia della nuova stanza e penso che anche a te sarebbe capitato lo stesso. Pollyanna qui si interruppe di colpo e guardò la zia con nuovo interesse. A te non è proprio mai successo di sbattere le porte, zia Polly? Spero bene di no, Pollyanna. La voce della signorina Polly era davvero indignata. Oh, che peccato, zia Polly, disse Pollyanna, e il suo volto esprimeva simpatia e reale comprensione. Peccato? Esclamò zia Polly, troppo stupita per aggiungere altro. Sì, proprio un peccato, perché se tu avessi avuto occasione di lasciar sbattere una porta, questo avrebbe significato che tu ne avresti avuto motivo per una grande gioia. E a me spiace che ti sia mancata un'occasione per essere contenta fino a quel punto. Pollyanna! Disse la signorina Polly con sgomento, ma la bambina era già scomparsa e l'unica risposta per la zia fu il rumore di una porta che sbatteva al piano di sopra, dove Pollyanna era corsa ad aiutare Nancy a trasportare la sua roba. Intanto la signorina Polly giù in salotto avvertiva uno strano senso di disagio, però in fondo sentiva che c'era qualcosa di cui poter essere contenta. Capitolo 11. Jimmy Bean. Venne il mese di agosto. E con esso diversi e sorprendenti cambiamenti. Anche se per Nancy in verità ormai non c'era più spazio per molte sorprese, dopo l'arrivo in casa di Pollyanna aveva infatti finito per abituarsi alle novità. Prima di tutto il gattino. Pollyanna lo aveva trovato per strada, poco lontano da casa, che miagolava in modo straziante e dopo che le indagini svolte presso tutti i vicini avevano confermato che nessuno lo reclamava, Pollyanna se l'era portato in casa come una cosa del tutto naturale. Sono contenta di non aver trovato alcun padrone, confidò festosa la bambina alla zia, perché ci tenevo tanto a tenerlo qui a casa per sempre. A me piacciono i gatti e di sicuro anche tu sarai contenta che possa vivere qui insieme a noi. La signorina Polly diede un'occhiata a quel povero fagottino grigio che Pollyanna teneva in braccio. A lei i gatti non erano mai andati a genio, neanche quelli sani, belli e ben puliti. Pollyanna, che orribile animale! Scommetto che ha le pulci e la rogna. Lo credo bene, povera bestiolina, ammise Pollyanna contemplando intenerita lo sguardo spaventato del gattino. Vedi com'è tutto tremante e impaurito, e si capisce che lui non sa ancora che lo terremo con noi. No, non lo sa, ma neanche nessun altro lo sa, replicò la signorina Polly ben risoluta. Oh, ma sì, invece che lo sanno, confermò Pollyanna che aveva frainteso le parole della zia. Io l'ho detto a tutti che l'avremmo tenuto con noi, se nessuno l'avesse reclamato, ed ero sicura che anche tu, zia, ne saresti stata felice, povero micetto. La signorina Polly schiuse le labbra per dire qualcosa, ma non le riuscì. Quella sensazione di irrimediabile impotenza che tante volte aveva accusato dopo l'arrivo di Pollyanna in casa l'aveva di nuovo bloccata. Naturalmente so bene, aggiunse Pollyanna in un impeto di riconoscenza, che non potrai permettere a un gattino randagio di andare alla ricerca di una casa quando anche a me ne hai offerta una. Così, quando la signora Ford ha chiesto se mi avresti permesso di tenerlo con noi, le ho risposto di sì. Già, perché in verità io avevo avuto l'aiuto delle signore dell'assistenza, mentre il gattino non aveva proprio nessuno, e sapevo che anche tu l'avresti pensata così. Concluse allegramente lasciando di corsa la stanza. Ma Pollyanna, Pollyanna! Protestò la signorina Polly. Io non intendo proprio! Pollyanna però era ormai a metà strada verso la cucina che gridava: Nancy, Nancy, vieni a vedere questo tesoro di gattino che la zia mi permette di tenere con noi per sempre. Intanto nel salotto la signorina Polly, lei che odiava i gatti, si era abbandonata con un sospiro di disperazione sulla sua poltrona. Si sentiva esausta e senza più forze per opporsi agli eventi. Il giorno dopo toccò al cane, anche più sporco e derelitto di quanto non fosse il gattino abbandonato. E di nuovo la signorina Polly, con suo enorme stupore, si ritrovò nella veste di angelo custode, un ruolo che su due piedi Pollyanna le aveva attribuito come la cosa più naturale del mondo. Così, nonostante aborrisse i cani ancora più dei gatti, finì per trovarsi un'altra volta incapace di sollevare qualunque obiezione. Dopo pochi giorni, però, quando Pollyanna tornò a casa accompagnata da un ragazzino cencioso, persuasa di ottenere anche per lui la stessa ospitalità, la signorina Polly riuscì finalmente a reagire. I fatti si svolsero nel modo seguente. Un giovedì mattina, con un tempo splendido, Pollyanna aveva portato alla signora Snow un po' di gelatina. La loro amicizia si era consolidata ancora di più dopo che Pollyanna era ripassata a farle visita per spiegarle bene il suo gioco. Da allora la signora Snow non aveva mancato di sperimentarlo spesso con la bambina, anche se i risultati non sempre erano stati brillanti. Del resto, per lei, abituata da sempre a lamentarsi per qualche motivo, non poteva che riuscire difficile da un giorno all'altro trovare motivi di contentezza in questa o quella circostanza. Ma grazie all'insegnamento di Pollyanna, che la riprendeva sempre con un sorriso, aveva finito per imparare bene il gioco. Quel giorno, con grandissima soddisfazione di Pollyanna, la malata si era detta contenta della gelatina, dichiarando che era ciò che più desiderava, senza sapere che un vicino ne aveva già portata una grossa porzione poco prima, come Millie aveva detto a Pollyanna al suo arrivo. La bambina stava pensando proprio a questo quando d'un tratto scorse un ragazzino seduto sul ciglio della strada che con aria triste stava intagliando un piccolo bastone. Ciao! Gli si rivolse Pollyanna tanto per attaccare il discorso. Il bambino, alzati gli occhi per un momento, le rispose con un altro ciao, ma poi tornò subito a occuparsi del bastone. Pollyanna sorrise. Mi sa che tu non diventeresti allegro neanche se ti portassi un piatto di gelatina. L'altro tornò a guardarla un po' incuriosito, ma si rimise subito a lavorare il bastone con il temperino. Pollyanna esitò per un momento, quindi decise di sedergliesi accanto. Nonostante avesse sempre coraggiosamente dichiarato che le bastavano le signore dell'assistenza, in cuor suo aveva spesso desiderato la compagnia di qualcuno della sua età e per questo decise di approfittare di quell'incontro. Mi chiamo Pollyanna Whittier, disse con semplicità. E tu? Il ragazzo cambiò posizione, un po' imbarazzato, e fece per alzarsi, ma poi decise di restare a terra. Jimmy Bean, borbottò con malagrazia, tenendo gli occhi abbassati. Oh, bene, adesso ci siamo presentati. Sono contenta che tu mi abbia risposto, anche se non mi sarei sorpresa se non l'avessi fatto. Io abito con mia zia Polly in casa Harrington, e tu dove abiti? Da nessuna parte. Da nessuna parte? Oh, ma non è possibile. Tutti hanno un posto dove abitare, asserì Pollyanna. Io no, invece, non ce l'ho. Proprio adesso sto cercando una casa dove andare a stare. Oh, e dove? Il ragazzo la guardò con fastidio. Sciocca, ti pare che la cercherei se sapessi dov'è? Pollyanna gettò un po' indietro la testa. Il ragazzo non era certo gentile, né le aveva fatto piacere che l'avesse chiamata sciocca. A ogni modo, non era uno dei soliti anziani che aveva sempre avuto intorno, e così tornò a chiedergli: E prima dove vivevi? Oh, se non facessi tante domande sarebbe meglio, disse spazientito il ragazzo. Devo farlo per forza, rispose calma Pollyanna, altrimenti non saprei niente di te. Certo che se tu parlassi di più io chiederei molto meno. Il ragazzo rise, anche se con scarsa convinzione, e comunque il suo volto apparve un po' rasserenato rispetto a prima. Va bene, mi chiamo Jimmy Bean, ho 10 anni e vado per gli 11. L'anno scorso sono andato a vivere all'orfanotrofio, ma eravamo talmente in tanti che non c'era più posto per me. Del resto nessuno aveva bisogno di me, penso. Così me ne sono andato e devo cercarmi qualche altro luogo in cui vivere, ma finora non l'ho ancora trovato. Mi piacerebbe una casa. Una casa qualunque con dentro una mamma e non una direttrice. Quando si ha una casa si ha anche una famiglia, ma io ho perso tutto da quando il papà è morto. Così ora sono in cerca. Ho già tentato in 4 case, ma nessuno mi ha voluto, anche se mi sono offerto di lavorare, naturalmente. Ecco tutto. Adesso credi di saperne abbastanza? E nel pronunciare le ultime parole, la voce del ragazzo tradiva la commozione. Ma come? È vergognoso! Esclamò Pollyanna solidale. Nessuno ti ha voluto. Oh, poverino. So bene cosa vuol dire, perché dopo la morte del mio papà non c'era nessuno che si prendesse cura di me, se non le signore dell'assistenza, finché la zia Polly non ha accettato di accogliermi. Pollyanna, a quel punto, si interruppe di colpo. Un'idea meravigliosa le si era affacciata alla mente. Oh, lo so io il posto che ci vuole per te, esclamò. Zia Polly ti prenderà, ne sono certa. Non ha forse accolto anche me? E non ha forse accettato anche Fluffy e Buffy quando nessuno voleva loro bene e non sapevano dove andare? Eppure erano solo un cane e un gatto. Su, su, vieni, sono sicura che zia Polly ti accoglierà. Tu non sai quanto sia buona e cara. Il piccolo volto smunto di Jimmy si illuminò. Per mille diavoli! Pensi a che mi accetterà davvero? Lavorerò, sai, sono forte io. E nel parlare mostrò un piccolo braccio scarno. Certo che ti accoglierà. Mia zia Polly è la più brava donna del mondo dopo che la mia mamma è salita in cielo tra gli angeli. E là ci sono una quantità di stanze, disse saltando in piedi e prendendolo per un braccio. È una casa grandissima, anche se, aggiunse un po' perplessa nell'affrettarsi verso casa, può darsi che la zia ti faccia dormire nel sottotetto, come è toccato anche a me nei primi tempi, ma adesso anche là ci sono le zanzariere alle finestre e non farà più tanto caldo e le mosche non possono più entrare. Altrimenti porterebbero in casa germi con le loro zampette, lo sapevi tu? Comunque probabilmente farà leggere anche a te il libro sulle mosche, se sarai buono, anzi, per dire meglio, cattivo. E poi anche tu hai le lentiggini, osservò lanciandogli un'occhiata critica. Così sarai contento a tua volta che non ci sia lo specchio sul comò e in più avrai un quadro panoramico fuori dalla finestra più bello di qualunque vero quadro appeso al muro. Sono sicura che in quella stanzetta potrai dormire meravigliosamente. Concluse con il fiato corto, rendendosi conto in quel momento che doveva risparmiarne un po' per la corsa. Santo cielo! Esclamò Jimmy ammirato, anche se piuttosto perplesso. Però non credo proprio che chi parla correndo con il fiato così corto voglia sentirsi fare altre domande inutili. Pollyanna rise. A ogni modo, accontentati, replicò, anche perché mentre parlo io tu puoi risparmiare il fiato. Appena giunti a casa, Pollyanna pilotò immediatamente l'amico al cospetto della stupita zia. Oh, zia Polly, disse trionfante, guarda che cosa ti ho portato, qualcosa da allevare davvero, più carino di Fluffy e di Buffy, un bambino vero, in carne e ossa, non gli importerà neanche un po' di dormire nel sottotetto da principio, e poi, sai, dice che lavorerà, anche se io, immagino, avrò bisogno di lui molto tempo per giocare. La signorina Polly si fece bianca come un cencio e poi rossa come un gambero. Aveva l'impressione di non capire bene, ma temeva di capire abbastanza. Pollyanna, che cosa significa tutto ciò? Chi è questo ragazzino tutto sporco? Dove l'hai trovato? Chiese seccamente. Il ragazzino tutto sporco indietreggiò di un passo e guardò in direzione della porta. Pollyanna invece rise allegramente. Oh, vedi, mi sono dimenticata di dirti il suo nome. Mi sono comportata male come l'uomo. E quanto allo sporco, sì, è vero, lo è, ma non più di flaffi e baffi quando li hai accolti. Una buona lavata renderà anche lui più che presentabile. A proposito, me ne stavo dimenticando. Il suo nome, zia Polly, è Jimmy Bean. Bene, ma che cosa ci fa qui? Ma zia Polly, te l'ho appena detto, esclamò mentre gli occhi le si spalancarono per la sorpresa. È qui per te, zia, te l'ho portato perché viva con noi. Ha bisogno di una casa e di una famiglia. Gli ho già detto come sei stata buona con me, con Fluffy e con Buffy, e che ero sicura che avresti fatto altrettanto con lui, che è certamente qualcosa di più di un cane e di un gatto. La signorina Polly si accasciò sulla poltrona, portandosi una mano tremante alla gola. Quella fatale rassegnazione interiore stava quasi per sopraffarla un'altra volta, ma poi finì per trovare la forza di reagire e scattò in piedi. Finiscila, Pollyanna! Come non bastassero già i gatti rognosi, i cani randagi, adesso pensi di dovermi portare in casa anche questo piccolo mendicante raccolto per strada? A quel punto il bambino ebbe un moto brusco. Con un lampo negli occhi, a capo eretto, avanzò deciso di due passi e, ritto sulle sue gambette, si piazzò faccia a faccia davanti alla signorina Polly. Io non sono qui per chiedere l'elemosina, signora, e da lei non ho bisogno di niente. Cercavo solo un posto per lavorare e guadagnarmi da vivere, e neanche sarei venuto qui a casa sua se non mi ci avesse accompagnata questa bambina, raccontandomi che lei è tanto buona e gentile e che sicuramente mi avrebbe accolto. Ecco tutto. Dopodiché, voltatosi, si avviò attraverso la stanza con un portamento talmente dignitoso che sarebbe parso ridicolo se non fosse stato toccante. Oh, zia Polly, disse Pollyanna con un filo di voce. Pensavo che saresti stata contenta di accoglierlo ed ero sicura che l'avresti fatto con piacere. La signorina Polly le intimò il silenzio con un gesto perentorio. Le erano ormai saltati i nervi. Quel complimento buono e gentile riferito a lei da quel piccino le rigirava ancora nelle orecchie e avvertiva che stava per riaffiorarle dentro quella segreta debolezza. Allora, chiamando a raccolta gli ultimi sprazzi della sua volontà, risolse di resistere. E con voce tagliente sbottò: Pollyanna, vuoi finirla una buona volta di riempirti sempre la bocca con quell'esasperante parola? Contenta, contenta, contenta, contenta, da mattina a sera, al punto da far ammattire chiunque? Uno stupore totale si dipinse sul volto di Pollyanna. Ma zia Polly, invocò, io ero davvero convinta che saresti stata contenta di accogliermi. Oh, e ruppe in pianto. Si portò la mano alla bocca e corse via, accecata dalle lacrime. Prima ancora che il bambino avesse raggiunto la porta di uscita sulla strada, Pollyanna l'aveva raggiunto. Stammi a sentire, Jimmy Bean, voglio che tu sappia quanto sono avvilita, gli diceva cercando di trattenerlo per un braccio. Ah, non fa niente, non fa niente, le rispose il ragazzo. Tu non ne hai nessuna colpa. Però io non sono un mendicante, aggiunse da ultimo offeso. Non sono un mendicante, ripeté con un'improvvisa punta di orgoglio. Certo che non lo sei, ribatté Pollyanna, ma non per questo devi pensare male di zia Polly. Probabilmente ho sbagliato io nel farti entrare così all'improvviso. E poi non le ho neppure spiegato niente di te, ma davvero lei è buona e gentile, lo è sempre stata. Può darsi che non sia riuscita io a chiarire le cose, però vorrei proprio poterti trovare una casa. Il bambino alzò le spalle e si girò per andarsene. Non importa, me la troverò io da solo e non sono un mendicante, sai? Pollyanna si fece pensierosa, ma poi il suo volto si illuminò improvvisamente. Ecco, disse, so io quel che ci vuole. Le signore dell'assistenza si riuniscono oggi pomeriggio. Ho sentito zia Polly che lo diceva. Presenterò loro il tuo caso. Anche papà diceva sempre che per ottenere qualcosa da loro bastava parlare della conversione degli infedeli o di tappeti nuovi da acquistare. Il ragazzo si voltò di scatto. Ma io non sono né un infedele né un tappeto. E poi che significa signore dell'assistenza? Pollyanna lo fissò con uno sguardo di disapprovazione. Ma dove diavolo sei cresciuto, Jimmy Bean, per ignorare l'esistenza delle signore dell'assistenza? Vabbè, se non hai voglia di dirmelo, brontolò Jimmy e incominciò ad allontanarsi risentito. Pollyanna però lo bloccò di colpo. Ma sì, vieni qui che ti spiego. Si tratta di un gruppo di signore che si incontrano per cucire, preparare pasti, raccogliere offerte e parlare. Ecco che cosa sono le signore dell'assistenza. Sono estremamente gentili, almeno lo sono state con me quando abitavo con papà. Non conosco ancora nessuna delle signore di qui, ma sono convinta che siano altrettanto buone e caritatevoli. Oggi pomeriggio andrò da loro per parlare di te. Ancora una volta il ragazzo si voltò contrariato. Non lo voglio per niente, figurati un po', se io devo presentarmi davanti a quelle donne per sentirmi dare un'altra volta del pezzente. No. Tu non devi venire là con me, replicò subito Pollyanna. È meglio che vada io sola a parlare. Farai questo? Sì, e vedrai che questa volta ti difenderò meglio, si affrettò ad aggiungere Pollyanna, che aveva notato sul volto del ragazzo un'espressione più distesa. E qualcuna di loro, sono certa, sarà contenta di accoglierti. Io voglio lavorare, ricordati di dirlo, disse il ragazzo. Certo, promise Pollyanna soddisfatta, visto che ce l'aveva fatta. Ti farò sapere domani la risposta. Dove? Sulla strada dove ci siamo incontrati oggi, vicino alla casa della signora Snow. Va bene, ci sarò, disse il ragazzo. Poi, dopo un attimo di silenzio, proseguì. Forse sarebbe meglio che questa notte tornassi all'istituto. Non ho un altro posto dove andare e fino ad oggi non me ne ero mai allontanato. Sono uscito inosservato e non ho detto a nessuno che non avevo intenzione di tornare, altrimenti non mi avrebbero lasciato nemmeno uscire. Anche se nessuno si preoccuperà quando prima o poi scopriranno che sono scomparso. Non è gente che ti vuole bene, capisci? A loro non importa niente. Capisco, disse Pollyanna, e il suo volto esprimeva la massima comprensione. Sono sicura che quando ci vedremo domani ti avrò trovato una casa e gente cui importerà di te. Ciao, disse con l'abituale vivacità mentre si allontanava per andare verso casa. La signorina Polly, intanto, seduta vicino alla finestra del salotto, era rimasta a osservare i due bambini e con uno sguardo severo seguì il ragazzo finché non scomparve dalla vista dietro l'angolo della strada. Quindi si alzò, sospirando, e salì al piano di sopra, presa da una sensazione di sconforto, cosa che non le capitava spesso. Aveva ancora nelle orecchie le parole sprezzanti del ragazzo, buona e gentile, e sentiva una strana desolazione nel cuore, come se avesse perduto qualcosa. Capitolo 12. Pollyanna cerca aiuto. Il pranzo in casa Harrington il giorno in cui Pollyanna avrebbe incontrato le signore dell'assistenza fu molto silenzioso. Per la verità la bambina cercava di parlare, ma senza successo, perché per ben 4 volte si vide obbligata, con suo grande imbarazzo e disagio, a interrompersi sulla parola contenta. La quinta volta che le accadde, la signorina Polly disse seccata: Sarebbe meglio, Pollyanna, che ti decidessi a pronunciare quella parola se proprio non puoi farne a meno, piuttosto che fare tante storie. Così il volto contrariato di Pollyanna si rasserenò. Oh, grazie, non puoi credere quanto sia difficile per me non pronunciarla, vedi? Ci ho giocato per tanto tempo che. Hai giocato a cosa? Domandò la zia. Al gioco che papà. E qui Pollyanna si arrestò di colpo, arrossendo di nuovo per essersi ritrovata ancora una volta su un terreno proibito. La zia tornò seria e non disse altro. Così il pranzo continuò nel più assoluto silenzio. Un po' più tardi a Pollyanna non dispiacque udire la zia che telefonava alla moglie del pastore per avvertirla che quel pomeriggio non avrebbe partecipato alla riunione con le signore dell'assistenza a causa di un fastidioso mal di capo. Quando poi la zia salì in camera sua e chiuse la porta, Pollyanna cercò di provare dispiacere per quell'emicrania, ma nello stesso tempo non poteva non avvertire come un senso di sollievo al pensiero che la zia non sarebbe stata presente quel pomeriggio quando lei avrebbe parlato del caso di Jimmy alle signore. Non poteva dimenticare infatti che la zia aveva chiamato Jimmy Bean, piccolo mendicante, e Pollyanna non voleva assolutamente che la zia potesse definire così Jimmy davanti alle signore. Sapeva che la riunione era fissata per le 2 nella sala adiacente alla chiesa, a neanche 1 chilometro da casa. Calcolò quindi di presentarsi sul posto poco prima delle 3, perché non ignorava che se la riunione era fissata per le 2, le signore non sarebbero state presenti tutte prima delle 3. E non voleva correre il rischio che fra tutte le signore mancasse proprio quella disposta ad accogliere Jimmy a casa sua o a trovargli una sistemazione. Serenamente, ma facendo appello a tutto il suo coraggio, Pollyanna salì i gradini d'ingresso della sala riunioni e si accostò alla porta. Dal locale proveniva un confuso chiacchiericcio frammisto a qualche sommessa risata. Pollyanna esitò un attimo, quindi si decise ad aprire la porta ed entrò. Il brusio cessò subito per lasciar posto a un sorpreso silenzio. Pollyanna Pollyanna avanzò un po' timidamente ora che era venuto il momento e si sentiva stranamente intimidita. Dopotutto, quei volti le erano poco familiari, non erano quelli delle sue care signore dell'assistenza che oramai aveva lasciato. Buongiorno, disse un po' confusa ma con garbo. Sono Pollyanna Whittier. Io penso che forse qualcuna di voi sa chi sono. Comunque io so chi siete voi, anche se così insieme non vi conosco tutte. Le parole della bambina furono seguite da un silenzio assoluto. Alcune delle signore avevano in realtà riconosciuto quella singolare nipote di una delle loro associate e quasi tutte ne avevano sentito parlare, ma in quel momento nessuna riusciva a trovare qualcosa da dire. Io sono venuta a esporre davanti a voi il caso, balbettò Pollyanna dopo un attimo, sfoderando inconsciamente il linguaggio usato abitualmente da suo padre. Si sollevò un leggero mormorio. È stata tua zia a mandarti? Chiese la moglie del pastore. Pollyanna arrossì leggermente. Oh no, sono venuta di mia iniziativa. Sono abituata alle signore dell'assistenza che mi hanno allevata con mio padre. A qualcuna sfuggì una risatina isterica e la moglie del pastore si accigliò. Di pure, cara, che cosa c'è? Ecco, si tratta di Jimmy Bean, disse Pollyanna con un sospiro. Non ha una casa all'infuori dell'orfanotrofio, ma lì sono già in tanti e non lo vogliono in ogni caso. Lui crede. Così non ci vuole stare. Jimmy vorrebbe una casa come ce l'hanno tutti, con una mamma e non una direttrice, con qualcuno che si prenda cura di lui. Ha 10 anni e va per gli 11. Ha pensato che a qualcuna di voi potrebbe far piacere accoglierlo e prenderlo a vivere con sé. Ah, davvero? Hai pensato una cosa simile? Mormorò una voce rompendo l'attonito silenzio che era seguito alle parole di Pollyanna. Gli occhi ansiosi della bambina si posarono via via sui volti che le stavano davanti. E poi ho dimenticato di dire che Jimmy ha intenzione di lavorare, aggiunse con enfasi. Il silenzio continuava. Poi, con freddezza, qualche signora prese a interrogarla. Quando di lì a poco tutte ebbero chiara la storia, cominciarono a parlare animatamente e a discutere tra loro. Pollyanna ascoltava con ansia crescente, anche perché non tutto ciò che dicevano le risultava chiaro. Da quanto poté arguire, dopo qualche tempo, comunque fu che neanche una era disposta ad accogliere il suo amico, sebbene ciascuna di loro sostenesse che qualcun'altra aveva la possibilità di farlo, dal momento che più di una non aveva in casa bambini propri da allevare, ma nessuna, per quello che la riguardava, era disposta ad accettare. Infine, ci fu la moglie del pastore che suggerì timidamente che come associazione avrebbero potuto assumersi l'onere di mantenere il bambino e di educarlo con il denaro che avrebbero dovuto quell'anno inviare ai bambini abbandonati dell'India. Molte signore parlavano parecchie, anche tutte insieme, e ancora più animatamente che all'inizio. Dai loro discorsi emergeva che la loro associazione era nota per gli aiuti che raccoglieva per missioni in terre lontane e molte dicevano che sarebbe stato estremamente mortificante se quegli aiuti quell'anno fossero diminuiti. Ancora una volta riuscì difficile a Pollyanna capire i loro discorsi. Le sembrava più che altro che a quelle signore non importasse quel che si poteva fare con il denaro, a patto che la cifra scritta accanto al nome della loro società in un certo rendiconto fosse tale da metterla in cima alla lista. Ma tutto era molto confuso e Pollyanna fu contenta di ritrovarsi poco dopo fuori all'aria aperta e nel silenzio, ma si sentiva molto triste per quello che avrebbe dovuto dire a Jimmy Bean. Come dirgli che le signore dell'assistenza avevano deciso che era meglio inviare il loro denaro ai bambini indiani, piuttosto che destinare una somma per allevare un bambino del loro paese. Egli non avrebbe infatti potuto rappresentare un motivo di merito nel loro rapporto annuale, secondo quanto aveva affermato una signora alta con gli occhiali. Soltanto quello conta per loro, pensava Pollyanna, mandare denaro in paesi lontani. Anche se mi spiacerebbe se non lo facessero, disse sospirando mentre proseguiva tristemente per la sua strada. Ma si sono comportate come se i bambini bisognosi del loro paese non contassero nulla. Mi sembra che preferiscano veder crescere le cifre di una relazione piuttosto che un bambino in carne e ossa.